Alle 11 la chiesa è già gremita, così come tutta Piazza della Balduina. Amici di Gabriele, gente del quartiere, tifosi da tutta Italia. Il nero del lutto si mischia ai colori delle sciarpe, bianco-azzurre ma anche giallo-rosse, rosso-nere. Il traffico paralizzato, i negozi chiusi. Colpisce il silenzio di ghiaccio. Poche le autorità di Pietro Veltroni Alemanno. Ci sono tutti i giocatori della Lazio, Spalletti e Totti della Roma. Alle 12 il funerale. Il parroco Paolo Tammi parla di morte assurda, di situazione allucinante. Una giustizia divina per Gabriele sulla quale nessuno può permettersi di parlare. Ma ci deve essere anche una giustizia umana. Una giustizia che non sia una vendetta. E poi l'appello ad amici e tifosi, non fate violenza. L'ultimo saluto, quello del fratello Cristiano. Mi donerai la forza per vincere momenti di profondo sgomento come quello attuale e per essere determinato a portare avanti le tante battaglie che la vita ci presenta. La prima sarà quella per renderti giustizia che meriti. Alle 13 esce il feretro, il silenzio si rompe, il sagrato diventa la curva di uno stadio. Tutti gridano giustizia, giustizia. Giustizia, giustizia, giustizia. Alessandra Schezzi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.